Buonasera cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto dallo studio di Bruxelles, da Annalisa, da Roberto in regia. Buonasera Roberto, grazie per il supporto tecnico questa sera e in collegamento Alessandra. Ciao Alessandra. Ok, scusate ma questa sera ci sono un po' di problemi tecnici e credo che il nostro regista meriti un applauso gigantesco. Ma malgrado siamo in radio non si può sentire. Comunque grazie mille Roberto per i tuoi sforzi. Assolutamente, un applauso a Roberto e un grande grazie per il supporto tecnico di questa sera. Esatto, dunque siamo chiare esterne dell'Europa, per noi rappresentano solo una linea tracciata su delle cartine geografiche, per gli immigrati invece sono dei veri e propri muri che bisogna superare se si vuole entrare nella fortezza Europa. A Giro di Boa questa sera cercheremo di capire, intraprendo questo viaggio molte volte con un epilogo tragico, quali ostacoli si devono superare per giungere in Europa e che cosa si trova una volta espugnata la fortezza Europa. Annalisa, ci vuoi presentare la nostra ospite che con tanta pazienza è ancora in collegamento telefonico con noi? Sì, la nostra ospite di questa sera è Sara Prestiani. Buonasera Sara e benvenuta a Giro di Boa. Buonasera. Dunque Sara è fotografa e coordinatrice del network internazionale Migre Europe, è specializzata sul tema dell'immigrazione nell'area del Mediterraneo, ha condotto diverse ricerche, effettuato missioni e viaggi in luoghi come Lampedusa, la Grecia, le Isole Canarie, il Mali, il Marocco, ha collaborato a diverse relazioni sul tema prodotte da questo network Migre Europe, sul tema dei diritti umani alle frontiere e ha pubblicato i suoi reportage fotografici in Italia, Francia e Spagna. Quindi ancora una volta benvenuta a Sara. Sara, ti vorrei chiedere prima di tutto come ti sei avvicinata a questo tema, quando hai iniziato a lavorare al tema dell'immigrazione e se puoi dare più dettagli ai nostri radioascoltatori su questo network per cui lavori, Migre Europe, come è nato e più nel dettaglio di cosa si occupa. Sì, il mio approccio alla migrazione è un approccio che è cominciato, come penso per molti, nel loro percorso di vita e professionale in modo più che casuale. È stato un incontro con un migrante algerino espulso dalla Francia che viveva in Italia, in un'Italia che negli anni 90 conosceva pochissimo il fenomeno dell'immigrazione. Nell'immaginario comune si parlava di immigrazione solo riferendosi agli albanesi e quindi proprio vedendo questi albanesi che mi sono cominciato ad interessare alla tematica. E poi sicuramente è stato vivere in Francia, in cui invece questa dimensione dell'immigrazione era una dimensione ormai acquisita, che aveva già avuto una sua evoluzione, eravamo già la seconda, terza generazione di immigrati, c'erano già associazioni che lottavano per il diritto dei migranti, e proprio appunto conoscendo queste associazioni mi sono cominciata a interessare e poi a poco questo fenomeno è diventato talmente importante anche in Italia, che ho visto, mi sono guardato un po' indietro e ho cominciato anche a lavorare sulla dimensione italiana e sulla dimensione spagnola, che erano più diciamo paesi di immigrazione più giovane, di una nuova generazione di migranti. E da lì quindi è cominciato il mio percorso, che si è avvicinato quasi subito a Migre Europe, che è questa rete euroafricana che è stata fondata nel 2002, è stata fondata dal Forum Sociale Europeo di Firenze, in cui una decina di associazioni principalmente europee si sono incontrate e si sono resi conto che la dimensione dell'immigrazione non era più una dimensione nazionale. La realtà ad esempio dei centri di detenzione non era semplicemente una realtà francese, belga, italiana o spagnola, erano delle realtà presenti in tutti i paesi europei e i centri di detenzione degli strumenti di gestione reale della repressione nell'ambito dell'immigrazione. E quindi appunto con questa volontà di capire questo fenomeno che diventava sempre più internazionale, Migre Europe si è creata. Nel 2002 contava solo qualche 5-6 associazioni interessate a creare appunto una rete informale. Oggi nel 2011 Migre Europe è una rete di 40 associazioni in 13 paesi diversi in Europa, Africa e Libano. I principali obiettivi di questa rete sono quelli prima di tutto di informare su quelli che sono gli effetti delle politiche europee, tanto in Europa come nei paesi di origine e transito dei migranti, ma soprattutto denunciare, purtroppo, vista qual è la realtà delle politiche di immigrazione, gli effetti nefasti sulla vita dei migranti, ma soprattutto le violazioni continue e flagranti dei diritti fondamentali dei migranti. Per questo Migroco osserva, denuncia e informa quello che succede alle frontiere attraverso la creazione di quello che noi abbiamo definito un progetto di osservatorio delle frontiere. Sara, tu hai citato diversi paesi, dunque non, nell'ottobre del 2008 leggevo che è stato approvato, non so se era così, sull'immigrazione e l'asilo, che prevedeva 5 impegni principali. Il primo, organizzare l'immigrazione legale, tenendo conto delle priorità, delle esigenze e delle capacità d'accoglienza stabilite e che stanno proponendo. Secondo impegno, combattere l'immigrazione clandestina. Terzo, rafforzare l'efficacia dei controlli alle frontiere. Costruire un'Europa dell'asilo, e il quinto impegno era creare un partenariato globale con i paesi di origine e di transito che favorisca le sinergie tra le migrazioni e l'asilo. Ti vorrei chiedere, visto che tu lavori in questo con questa materia data di versione, a 3 anni di distanza gli impegni sono stati mantenuti oppure il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo? Purtroppo se dobbiamo fare un bilancio del patto europeo dell'immigrazione e dell'asilo, ci rendiamo conto che in realtà è stato purtroppo appunto mantenuto solo alcuni di questi punti, e come sempre, come dall'inizio della politica di armonizzazione delle politiche di immigrazione, ci rendiamo conto che i soli unici punti che sono stati mantenuti e rinforzati sono i punti di repressione dell'immigrazione. Allora, guardando i 5 punti che tu hai citato, effettivamente ci rendiamo conto che appunto quello dell'organizzazione dell'immigrazione legale è completamente assente nel panorama. La politica europea attuale è quella di chiudere le porte, non di aprirle, è per questo che poi centinaia e migliaia di migranti sono obbligati a prendere e rischiare la loro vita prendendo delle strade della migrazione, quindi dei barconi o passando deserti, attraversando deserti per arrivare in Europa, perché appunto la strada della migrazione legale, quella dei visti, è praticamente una storia antica, non esiste più, è praticamente impossibile entrare in Europa con un visto. Per quanto riguarda invece il secondo punto, la lotta all'immigrazione irregolare, quella sembra invece essere all'ordine del giorno. Vediamo appunto direttive rimpatri che decidono che si può detenere una persona fino a 18 mesi per il semplice fatto di non avere dei documenti. Vediamo anche queste politiche di repressione del traffico di esseri umani che si stanno portando come baluardo della difesa della cittadinanza, quando in realtà sono spesso semplicemente un modo per attirare l'attenzione e aumentare il concetto di criminalizzazione dell'immigrazione. Il terzo punto è sicuramente quello su cui si stanno focalizzando gli sforzi di tutti i paesi europei, il rinforzo dell'efficacia dei controlli alle frontiere, ma a quale prezzo, a quale costo? Vorrei fare una piccola riflessione, ad esempio la politica italiana, rinforziamo il controllo alle frontiere significa firmare degli accordi come è stato fatto nel 2008 dall'Italia con il governo di Gheddafi, con un governo di dittatura, questo è il prezzo da pagare per aumentare l'efficacia del controllo alle frontiere, oppure un altro mezzo di rinforzare l'efficacia del controllo alle frontiere è quello di praticare respingimenti automatici che succedono sia alle frontiere adriatiche tra l'Italia e la Grecia che dall'Italia alla Libia, questo è quello che concretamente è definito il controllo alle frontiere. Per quanto riguarda il quarto punto, è una realtà, l'asilo in Europa non esiste più, prima di tutto i richiedenti asilo non hanno più un accesso legale al territorio, quindi anche loro sono obbligati a prendere i barconi, mettere a rischio e pericolo la loro vita per arrivare in Europa, e poi se vediamo il tasso di accettazione, questo tasso di accettazione è sempre più basso delle richieste d'asilo, e poi in realtà di fatto ci rendiamo conto, vedendo un'analisi negli ultimi 10 anni delle richieste d'asilo che sono state presentate, ci rendiamo conto che c'è un abbassamento vertiginoso delle richieste d'asilo depositate. Questo non perché in realtà nei paesi di origine i problemi non ci siano più e quindi i motivi di partenza non esistono più, non sussistano, in realtà perché è praticamente impossibile per un richiedente asilo riuscire ad arrivare in Europa per poi richiedere asilo. E arrivando al quarto punto, purtroppo il legame tra migrazione e sviluppo è un legame che diventa sempre più perverso. In realtà il discorso pubblico che si fa è: sviluppiamo i paesi d'origine affinché i migranti non arrivino sul territorio, oppure sviluppiamo, facciamo un accordo di sviluppo con il paese di origine in cambio di un accordo che facilita le espulsioni, quindi i famosi accordi di riammissione. Questo non è la giusta relazione tra migrazione e sviluppo, che dovrebbero essere completamente separati uno dall'altra e non una condizionale all'altra. Del progetto Osservatorio delle Frontiere sei senza dubbio un osservatore privilegiato non solo della situazione italiana, ma anche in paesi come la Spagna, la Grecia, la Francia. Come si comportano questi altri paesi europei nei confronti di tutte queste persone disperate in fuga verso l'Europa? Hai fatto appunto prima riferimenti all'Italia, appunto come paragoniamo l'Italia rispetto ad altri paesi come Spagna, appunto Grecia e Francia. Allora, purtroppo quello che dicevo prima sull'applicazione del patto europeo nel punto numero 3 sul controllo alle frontiere diventa una realtà più che italiana o spagnola, una vera e propria realtà europea. L'Europa si sta barricando dietro le sue frontiere, sta chiudendo le porte, quindi questo lo sta facendo tanto l'Italia come la Spagna con il governo Zapatero, come il governo greco. Sono proprio delle tendenze che vengono a livello europeo e dalle istituzioni europee in primis. Quindi poi in realtà c'è chi lo fa in maniera più violenta, come appunto l'Italia, violando spesso qualsiasi convenzione internazionale, c'è chi lo fa in maniera più soft, ma semplicemente perché non è un paese di prima frontiera come la Francia, che poi in realtà ha una politica molto repressiva alla sua porta d'ingresso, che è poi l'aeroporto di Parigi, perché ricordiamoci che le frontiere non sono solo quelle che poi spesso i media ci fanno vedere, queste immagini di barconi carichi di migranti. Le frontiere spesso sono gli aeroporti da cui poi fondamentalmente arriva la maggior parte dei migranti e che spesso sono rinviati senza che nessuno ne sappia niente. La Spagna ad esempio è un esempio abbastanza interessante. La Spagna di un governo di sinistra, in realtà ha avuto una politica molto dura in ambito di gestione delle sue frontiere. Ricordiamoci il 2007, le isole Canarie sono esattamente come ora Lampedusa, con un arrivo medio di 30.000-40.000 persone migranti all'anno. A quell'epoca la Spagna ha avuto una prima reazione, che è come è stata quella dell'Italia, cioè di accogliere i migranti e poi trasferirli sulla penisola e poi da lì purtroppo creare una specie di fucina di migranti irregolari, perché poi era molto difficile ottenere un permesso di soggiorno. Però poi appena ha potuto, così come l'Italia appena ha potuto, ha fatto un accordo con la Libia, il governo spagnolo ha fatto subito un accordo con il Senegal e in qualche mese ha espulso 5.000 migranti in direzione del Senegal, dichiarandoli senegalesi. Poi ci si è reso conto, parlando, intervistando i migranti, che molti di loro non erano assolutamente senegalesi, era stata loro attribuita la nazionalità senegalese ed erano stati respinti. Questo per far capire che in realtà, quindi, questa politica della gestione repressiva del controllo alle frontiere, cercare di impedire l'arrivo e se arrivano cercare di fare accordi per espellerli il più rapidamente possibile, purtroppo sembra essere il tratto comune dei paesi europei, soprattutto di quelli che sono più vicini ai paesi di transito e di origine, e quindi la Grecia, l'Italia e la Spagna. Sara, tu nella tua veste di coordinatore immagino che avrai viaggiato molto e avrai visto molte realtà riguardo alle frontiere esterne. Hai citato per esempio adesso le Isole Canarie, Lampedusa. C'è una frontiera di cui in Italia si parla poco, proprio perché è probabilmente geograficamente abbastanza distante da noi, ma soprattutto diciamo che noi siamo particolarmente concentrati su quella che è la nostra frontiera, su quello che è il nostro, diciamo così, faro nel Mediterraneo, appunto Lampedusa. Però io mi stavo riferendo ad un'altra frontiera, la frontiera greco-turca. Ho visto dalle tue foto, come dicevamo prima in apertura, tu sei anche una fotografa, hai fatto dei reportage molto, molto toccanti sulla la frontiera greco-turca. Ci vuoi dire qualcosa? Sì, questa frontiera che, appunto, come dici tu, è una frontiera che sembra poco interesserà l'Italia, in realtà dovrebbe interessarlo e anche molto, perché poi in realtà ci rendiamo conto che i migranti, una volta superata la frontiera greco-turca, quello che cercano di fare è venire in Italia, però in realtà effettivamente se ne parla molto poco. Cos'è questa frontiera? Quindi la frontiera greco-turca è uno dei punti principali di passaggio, lo è stato da anni, per afghani, iracheni, iraniani, pakistani, indiani, quindi la popolazione proveniente da questi paesi. Con la chiusura della rotta libica fino al gennaio del 2011, quindi per tutto il 2009-2010, e soprattutto con la chiusura della rotta spagnola, perché poi di fatto la Spagna è riuscita a chiudere le sue frontiere, ci siamo resi conto che la frontiera greco-turca è diventata il punto principale di passaggio di tutti i flussi migratori. Ce ne siamo resi conto perché abbiamo cominciato a vedere transitare per questa frontiera marocchini, algerini, tunisini, ma anche eritrei, somali, etiopi, quindi migranti che normalmente vedevamo in altre frontiere. I migranti quindi transitano per la Turchia e poi la maggior parte di loro transita per questa frontiera attraverso la regione del fiume Evros. Prima di tutto ricordare che è una regione minata, quindi c'è un rischio continuo che un migrante possa saltare su una mina, come è stato poi per alcuni di loro, e perdere un arto. E poi la regione Evros è caratterizzata dal passaggio di un fiume che effettivamente durante l'estate è basso, ma durante l'inverno le sue acque sono molto alte e una corrente molto forte, quindi comunque anche lì un passaggio di un rischio molto, molto forte nel passaggio. Una volta superata questa frontiera, quello che aspetta i migranti è la detenzione. Lungo tutta la frontiera ci sono vari centri di identificazione e espulsione, quindi centri di retenzione. La durata di detenzione in Grecia è di 6 mesi. Quindi i migranti sono detenuti in condizioni che noi abbiamo definito disumane e degradanti, perché non essere detenuti senza neanche poter uscire 5 minuti per prendere l'aria per 6 mesi di fila sono condizioni degradanti e disumane. Per quelli che riescono a uscire, l'obiettivo primo è quello di arrivare ad Atene e da lì raggiungere i porti di Patras e Goumenitsa. Perché fuggire dalla Grecia? Fondamentalmente perché prima di tutto è un paese dove i richiedenti asilo non vedranno mai accordato lo status di rifugiati. Ricordiamo semplicemente che il tasso di accettazione degli status di rifugiati in Grecia è pari allo 0,04%, quindi ci sono una decina di status accordati all'anno. E poi perché la Grecia si caratterizza per un trattamento molto violento rispetto ai migranti che denunciano continue violenze e violazioni di diritti da parte della polizia, ma anche spesso degli atti di razzismo da parte della popolazione. E quindi appunto questo transito per la Grecia è abbastanza veloce, perché poi l'obiettivo è quello di arrivare a un'altra frontiera, la frontiera adriatica, arrivare a Patras e Goumenitsa e da lì passare in Italia. Sara, Annalisa, sì, un'ultima domanda da studio? Sì, stavo giusto intervenendo, un'ultima domanda da studio prima della chiusura. Abbiamo parlato nel corso dell'intervista, Sara, dei vari luoghi in Europa che tu hai avuto modo di visitare, dei centri di detenzione, abbiamo parlato delle Canarie, appunto adesso della frontiera greco-turca, di Lampedusa. Ti vorrei chiedere qual è il sentimento che ti porti a casa alla fine delle tue missioni sul campo? Purtroppo è un sentimento di profonda amarezza, prima di tutto per delle persone che conosco, centinaia di migranti che perdono la loro gioventù, che perdono la loro vita cercando di fare una specie di percorso ad ostacoli che è il percorso migratorio, un percorso che si caratterizza da un'erranza continua, perché ricordiamoci, abbiamo parlato di un semplice pezzo del loro percorso, perché prima di arrivare in Turchia c'è, per ad esempio prendiamo un afgano, c'è l'Afghanistan, c'è l'Iran, c'è il transito per la Turchia, e poi anche una volta in Grecia passano mesi prima di arrivare in Italia, e poi dall'Italia spesso vogliono andare in Inghilterra, e una volta che arrivano in Inghilterra c'è il regolamento Dublino 2 che li obbliga a ritornare in Grecia, perché è il paese in carico per le loro richieste d'asilo. Quindi questo provoca delle specie di percorsi ad orbita in cui i migranti passano mesi ed anni prima di trovare un paese di accoglienza, e spesso magari non lo trovano, o anche quando lo trovano dopo qualche mese sono espulsi nel paese di origine. Quindi il profondo sentimento di amarezza per vedere si crea vedendo come sono trattate queste persone, come migranti, come sono represse, come sono violati i loro diritti, e come esseri umani, come li si sta trattando, come se non fossero neanche degli esseri umani, come se fossero semplicemente dei numeri, che ad esempio Maroni poi si pavoneggia a raccontare, che ha espulso 25.000 persone in un anno. Queste 25.000 persone sono persone con una vita, e la loro vita si sta distruggendo in questo percorso migratorio. Quindi io penso che il sentimento più forte è proprio quello dell'amarezza nel vedere queste vite che purtroppo sono distrutte da politiche europee di immigrazione, e la seconda reazione è quella della rabbia, e la terza è quella della reazione, quindi cercare di informare il più possibile, che le persone si rendano conto di quelle che sono le realtà migratorie, che non sono quelle che la Lega Nord ci voleva al vedere, di un popolo che ci invade, ma di un popolo che ci potrebbe dare semplicemente ricchezza se non distruggiamo la loro vita durante il loro percorso migratorio. Sara, siamo arrivati in conclusione al nostro collegamento, malgrado sia particolarmente interessante il tuo intervento, dobbiamo fermarci qua perché siamo in diretta, dunque abbiamo dei tempi da rispettare. Ti salutiamo, ti ringraziamo molto per il tuo interessantissimo contributo, ti auguriamo buon lavoro. Annalisa, vuoi aggiungere qualcosa? Mi unisco al tuo ringraziamento, grazie Sara per il tuo interessante contributo alla trasmissione di questa sera, anche io ti vorrei augurare buon lavoro. Speriamo di risentirci presto. Grazie a voi e soprattutto complimenti per aver scelto un tema così importante nella vostra trasmissione. Grazie a te, buona serata. Buona serata. Per sentirci facciamo ora una pausa musicale. Buonasera cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto della seconda parte di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Dunque Alessandra, questa sera ci occupiamo di immigrazione. Sì, esatto, di migrazione. Questa sera a Giro di Boa stiamo discutendo dei flussi migratori che arrivano alle frontiere marittime e terrestri dell'Unione Europea. Con il nostro primo ospite, Sara Prestiani, fotografa e coordinatrice della rete internazionale MiGroup, abbiamo discusso, prima della pausa musicale, degli impegni del Patto Europeo sull'immigrazione e l'asilo e della realtà in alcuni paesi europei. Con il nostro secondo ospite cercheremo invece di capire perché le frontiere esterne dell'Europa rappresentano per gli immigrati dei veri e propri muri, che fanno del nostro continente una vera e propria fortezza. Annalisa, ci vuoi presentare il secondo ospite già in collegamento con noi? Sì, il secondo ospite di questa sera è Gabriele Del Grande. Ciao Gabriele, benvenuto a Giro di Boa. Ciao, buonasera. Buonasera, Gabriele è viaggiatore, scrittore, giornalista. Nel 2006 ha fondato l'Osservatorio sulle vittime della frontiera Fortress Europe. Ha collaborato e collabora occasionalmente con l'Unità, redattore sociale, Peace Reporter e altri. Per Infinito Edizioni ha pubblicato i libri Mamadou va a morire nel 2007, Il mare di mezzo nel 2010 e Roma senza fissa dimora nel 2009. Benvenuto ancora. Gabriele, prima di tutto ti vorrei chiedere appunto qualcosa su Fortress Europe. Come ti è venuto in mente di creare questo osservatorio sulle vittime della frontiera? Da dove è nata questa idea di parlare di queste dei migranti, vittime dimenticate, poco interessanti, morti che quasi non fanno più notizia? Ma guarda, l'idea è nata in realtà un po' per caso, non c'era un grande progetto dietro all'inizio, c'era soltanto un articolo che scrissi allora, ed era la fine del 2005, per l'agenzia stampa Redattore Sociale. Ho appena cominciato a lavorare come giornalista e feci una stima di quelle che potevano essere le vittime delle traversate nel canale di Sicilia negli ultimi anni, cercando semplicemente notizie sugli archivi della stampa online. Mi venne fuori questa lunghissima tabella con tutta una serie di link appunto alle notizie documentate delle tragedie quotidiane del mare, e dopodiché appunto pubblicai tutto quanto sul blog, che era il modo più facile, più veloce, più economico per condividere le informazioni in rete, e da lì poi è nato tutto quanto il resto, nel senso che poi accanto ai numeri col tempo sono arrivati i nomi, le storie, i volti, no, di tutte le persone che poi ho incontrato durante i miei viaggi, perché poi dal 2006 ad oggi di fatto non mi sono mai fermato, insomma. Continua a viaggiare, continua a raccontare quello appunto l'Europa vista dalle sue frontiere. Gabriele, nei tuoi 4 anni di viaggio nel Mediterraneo hai avuto modo di visitare e di preparare diversi reportage su diversi paesi, ma senz'altro a partire dal suo sito si può capire che tu sei un esperto di Libia, della Libia come era prima dell'attuale guerra che è in corso. L'Italia, come sappiamo, ha siglato diversi accordi con il regime di Gheddafi che prevedevano, fra l'altro, il rafforzamento della frontiera meridionale libica con un sistema di stazioni radar. Il sistema doveva entrare in funzione dopo 3 anni, grazie soprattutto ai finanziamenti provenienti dal governo italiano e anche dall'Unione Europea. Io volevo sapere quali erano le condizioni, visto che sono sicura che tu li hai visitati, dei campi dove i ragazzi che tentavano di immigrare verso l'Europa venivano detenuti in Libia, e soprattutto quali erano le condizioni nel momento che questi venivano rimpatriati in Libia. Io ho avuto modo di visitare 3 dei campi di detenzione libici nel 2008, il campo di Misrata, quello di Zlitan e quello di Sebha, nel sud, nel deserto, e pur essendo visite autorizzate dalle autorità libiche, quindi sono visite in qualche modo preparate, voglio dire, chiaro che non avevamo tirato all'uscita un pochino i campi, speriamo di farci vedere, eppure insomma ne tornammo con un collega tedesco, ne tornavamo tutti e due insomma sconvolti per le condizioni che avevamo visto, di sovraffollamento. Immaginatevi delle celle grandi più o meno come una comune camera da letto, dove vengono tenute 50-60 persone con un unico bagno senza finestre, dove l'unica presa d'aria appunto è la piccola feritoia che c'è su queste porte di ferro, appunto, no, sigillate tutto quanto il giorno. Si aprono soltanto quando poi entrano le guardie a menare, a picchiare, a più non posso, se sono uomini, sono donne, se le portano via, le violentano. È una situazione agghiacciante, ed è poi di fatto, se ci pensate un attimo, una situazione che di fatto c'è in tutte le carceri libiche, insomma non è che i detenuti libici, detenuti voglio dire per reati comuni, se la cavino molto meglio, insomma sono le condizioni di un paese da 40 anni sotto dittatura, in un paese dove la polizia è da 40 anni addestrata a picchiare, a fare male. C'è proprio una cultura, se volete, della tortura che parte dai detenuti libici. Immaginatevi quanto poi possa essere più grave per i detenuti che libici non sono, e soprattutto che sono africani, neri, in un paese dove appunto la Libia, dove comunque c'è un razzismo di base molto molto molto diffuso. Sono situazioni quelle che noi con il sito Supporto di Europa denunciamo da ormai dal 2006-2007 praticamente, già da prima che io andassi in Libia, appunto quando raccoglievamo le testimonianze, le interviste di chi il viaggio l'aveva fatto, di chi ci raccontava appunto quello che succedeva oltre mare nei campi senza viaggiare dall'Europa. Se è vero che un grande pubblico non è molto informato su quello che accadeva lì, è vero che invece i funzionari lo erano, e come. Quindi altri funzionari, sia italiani, della Polizia di Frontiera, del Ministero dell'Interno, ma anche europei, perché insomma è vero che l'Italia ha firmato l'accordo con la Libia, ma è anche vero che c'era un negoziato a livello europeo, ovvero nel 2007 Frontex, questa agenzia europea che coordina il pattugliamento, fece una missione diciamo in Libia per verificare le possibilità di una futura collaborazione con la Polizia di Gheddafi. Ebbene, avendo visitato quei campi, avendo visitato anche i campi, quelli veramente off-limits, quelli che a noi non ci piacevano visitare per quanto erano appunto agghiaccianti le condizioni, ebbene quelle missioni, quei funzionari omisero puntualmente e sistematicamente di raccontare quello che avevano visto e di denunciare quello che avevano visto. L'idea, se volete, di fondo, che poi l'idea del razzismo che domina la politica europea in questi anni, l'idea che comunque si poteva chiudere un occhio sulle condizioni di detenzione, sul rispetto dei diritti, ma prima ancora, se volete, un minimo di umanità di questa gente, perché comunque sarebbe servito a chiudere gli sbarchi e quindi a garantire un consenso, un basso consenso elettorale a chi fosse riuscito in questa operazione, tanto è vero che gli accordi con la Libia in Italia erano firmati il governo di sinistra, che ha messo in pratica il governo di destra, cioè c'è anche una continuità di partisan su questi temi. Gabriele, quindi si parla di immigrazione, di invasione dei migranti, spesso di un'Europa quindi invasa. Quali soluzioni auspichi per il futuro? Hai parlato adesso di Europa, hai citato Frontex. secondo te l'Europa come dovrebbe agire, o chi in Europa dovrebbe agire? Ma l'Europa dovrebbe fare, secondo me, la scelta migliore sul lungo termine. La scelta più lungimirante in questo momento per il futuro è la libertà di circolazione. Oggi parlare di libertà di circolazione è un tabù, perché ci siamo tutti quanti bevuti la teoria dell'invasione, siamo tutti quanti pronti appunto a gridare all'invasore, nessuno più è capace di ragionare in modo sereno davanti ai numeri, davanti alla realtà, nessuno più si rende conto che laddove la libertà di circolazione diventa realtà i problemi si sono risolti, anziché aumentare. Penso al caso italiano, ad esempio. Qui da 4 anni, dal 2007, siamo in regime di totale apertura della frontiera con paesi come Romania, Polonia, Bulgaria, Slovenia, le new entry, no, dell'Unione Europea, che da dove proviene, se volete, una buona metà della presenza immigrata in Italia. Ebbene, da 4 anni, da quando si sono aperte completamente le frontiere con questi paesi, non c'è stata non solo nessuna invasione, ma al contrario c'è stata tutta una nuova dinamica della mobilità. E poi il grande tema è la mobilità, non è tanto l'immigrazione. Cioè, noi oggi abbiamo qua ragazzi che arrivano dalla Romania, si fanno la stagione, lavorano 2 mesi, 3 mesi, tornano a casa, altri che vengono in vacanza a trovare i familiari, e anziché viaggiare un po' sotto un camion o pagando 5.000 euro per un contratto falso, viaggiano in aereo con i low cost a 50 euro, con la stessa modalità che usa un italiano che se ne va in Erasmus a Bruxelles piuttosto che un estate di lavoro a Londra. La prospettiva in futuro non può non essere questo: dobbiamo uscire tutti quanti dalla paura e dall'irrazionalità che genera la paura. Tutti guardano a Lampedusa, guardano al mare come se fosse appunto il fronte della nuova invasione, e ci dimentichiamo di contare i numeri, ci dimentichiamo di vedere che negli ultimi 15 anni, prendendo tutte le frontiere marittime europee, quindi Italia, Spagna, Grecia, Malta, Cipro, arrivano in media in un anno 60.000 persone per tutta l'Europa, che sono, diciamo, grosso modo un quarto, un quinto del solo fabbisogno italiano di manodopera straniera, tanto che mentre l'Italia firma gli accordi con Gheddafi e predica il respingimento per rimandare 20.000 persone in Libia, nello stesso tempo firma accordi per portare in Italia 150, 200.000, 300.000 lavoratori ogni anno, indipendentemente dai governi che ci sono, di destra o di sinistra, perché c'è una realtà che è quella del mondo di oggi, è una realtà di gente che si sposta, che fa avanti e indietro, ed è non solo stupido, ma anche proprio controproducente l'idea di poter gestire le vite degli altri, di poter gestire la mobilità degli altri. Si poteva fare quando a spostarsi erano 1.000 persone, oggi parliamo di decine di milioni di persone che si spostano per motivi di lavoro, di studio, familiari, turistici o quant'altro, e la risposta non può non essere l'apertura. L'apertura progressiva. Chi per primo in Europa riuscirà a scommettere su questa cosa, tra 50 anni si troverà sicuramente il vantaggio di questa scelta lungimirante. Basti pensare in Italia a quante decine, centinaia di milioni di euro si spendono per la macchina repressiva delle espulsioni, in un paese che fa, di fronte a quei numeri che vi dicevo prima, di richiesta di ingresso ogni anno di 200-300.000 persone, ogni anno si spendono centinaia di milioni di euro per rimandare a casa 5-6.000 persone. Cioè, che senso ha proprio in termini di numeri, no? Cioè, come si potrebbero spendere altrimenti quei soldi, tanto più in tempo di crisi? Gabriele, siamo arrivati ormai in chiusura perché il tempo è tiranno, siamo in diretta, abbiamo giusto il tempo per un'ultima battuta, dunque ti chiederei di essere molto, molto breve. Lo scorso 17 giugno a Strasburgo il Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, in occasione della giornata mondiale dei profughi e dei richiedenti asilo politico, ha dichiarato: troppi esseri umani compaiono da un po' di tempo in mare, inghiottiti dalle onde, mentre cercano di realizzare il sogno di benessere, giustizia e libertà. Bisogna intervenire per interrompere questa catena di decessi, o almeno limitarne le dimensioni. Tu cosa ti senti di rispondergli in 30 secondi? Ma, concordo pienamente. Una via per limitare le morti in mare e in Mediterraneo sarebbe sicuramente aumentare i mezzi per il salvataggio e il soccorso. quindi non tanto impegnare le navi da guerra dell'Unione Europea per fare i respingenti in mare come sostiene Frontex, quanto mettere a disposizione più mezzi possibili per fare il salvataggio e magari coinvolgendo anche le navi della NATO che davanti alle coste libiche in questi giorni funzionano da basi aeree per dove partono gli aerei che vanno a bombardare la Libia, forse se collaborassero un po' di più con la Guardia Costiera italiana qualche vita in più si potrebbe salvare, visto che poi i pescherecci che arrivano con a bordo le persone che viaggiano dalla Libia del Tanato di Libia passano lì, passano sotto gli occhi delle corvette militari della NATO, per cui sicuramente il maggior sforzo possibile da parte di tutti per il salvataggio nel breve termine ridurrebbe le perdite di vite umane. Nel lungo termine, come dicevo prima, la soluzione non può essere repressiva. Banalmente basterebbe mettere una nave da linea tra Tripoli e Palermo e su quelle barche non viaggerebbe più nessuno. Cioè, anche questo dobbiamo chiederci, come mai la gente va a morire in mare e non può invece viaggiare come facciamo noi turisti europei quando andiamo in Marocco, in Tunisia, in vacanza con il passaporto sulla terra. Gabriele, siamo purtroppo in chiusura, io avrei tantissime altre domande, però purtroppo non c'è tempo, dalla regia mi stanno facendo segni di chiudere. Io ti vorrei ringraziare per il tuo interessante contributo alla trasmissione di questa sera, speriamo di riaverti in futuro come nostro ospite, grazie, ti vorrei augurare buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a te, buon lavoro, Gabriele.